Scusatemi se mi collego così breve distanza al servizio romano del nostro Danilo, ma in questi giorni è forse inevitabile. Sapete che cosa mi è piaciuto nelle dichiarazioni di investitura del nuovo Presidente del Consiglio? Non mi è piaciuto l'impegno solenne a interpretare l'anelito di cambiamento che il Paese ha espresso e a mettere mano anzitutto alla riforma elettorale. Dopo quanto abbiamo detto negli ultimi mesi, un impegno assolutamente ovvio l'avrebbe preso anche Cossutta. E neanche quello di portare avanti con rinnovato vigore il risanamento delle pubbliche finanze assicurando una maggiore equità fiscale, di promuovere il rafforzamento e l'ammodernamento dell'apparato produttivo, di frenare l'inflazione, difendere il valore reale dei redditi, proseguire e intensificare la lotta alla criminalità e in politica estera confermare l'orientamento nelle linee di base di costruzione dell'unità europea. Non ho ancora sentito un capo di governo nella trentina abbondante che ho visto passare che si impegnasse a portare avanti un aggravamento delle pubbliche finanze, di aumentare l'iniquità fiscale, di promuovere l'indebolimento e la senescenza dell'apparato produttivo, di incrementare l'inflazione, attaccare il valore reale dei redditi, venire a patti con la malavita e non confermare l'orientamento nelle linee di base di costruzione dell'unità europea. No, a me Ciampi è piaciuto soprattutto quando ha detto solennemente che adempiendo nella lettera e nello spirito all'articolo 92 della Costituzione non avrebbe proceduto a consultazioni formali. Beh, la forza, direte, è piaciuto a tutti. Stamattina non c'era giornale che non interpretasse la dichiarazione come la campana a morto per la partitocrazia, i cui esponenti non potranno più inserirsi, mannaggia, nel processo con cui il Presidente del Consiglio in piena autonomia sceglie il governo. A me però è piaciuta per un altro motivo, mi è piaciuta per una certa sua minacciosa correttezza. Capite? Il Ciampi non ha detto che non procederà a consultazioni di nessun genere, e ci mancherebbe. Ha sentito il bisogno di dire che non procederà a consultazioni formali. Formali, che non vuol dire che ha ordinato la cameriera che ove telefonasse Martinazzoli deve rispondere che il governatore non è in casa, o che Occhetto non si degna neanche di sputare in un occhio e che Bossi per lui è solo il nome di una via milanese vicino alla sede di Mediobanca. Lui non riceverà i leader massimi e minimi in ordine di importanza parlamentare, in una sede pubblica, sotto l'occhio delle telecamere e con la dichiarazione all'uscita, ma più di questo non si è proprio impegnato a fare. E se ha aggiunto quell'aggettivo vuol dire che qualche consultazione informale a priori non se la nega. E vedete, che differenza pensate ci sia tra una consultazione formale e una consultazione non formale? Non che la seconda non sia cogente o altrimenti impegnativa, a rigore nel passato regime non voleva neanche la prima. La differenza, per quanto riesco a vedere io, è che le consultazioni formali erano pubbliche, mentre le nuove non è detto che lo siano. E infatti mi sembra che tutti lo stiano cercando e si stanno chiedendo chi cavolo sta consultando. Ed è una differenza che non mi entusiasma, non so, sarò un nostalgico, ma tra il formale pubblico e l'informale privato quasi quasi preferisco il primo. Nell'informale privato c'è il rischio che la contrapposizione diventi quella tra formale e sostanziale, e da una consultazione sostanziale sotto banco chissà perché non mi aspetto nulla di buono. D'altronde, ragazzi miei, che volete, sarò un caso penoso di recidività, ma io di uno che per 14 anni è stato governatore della Banca d'Italia proprio non riesco a fidarmi più di tanto. Non nel senso che non possa essere un padre di famiglia esemplare, una bravissima persona e persino un eccellente capo di governo, ma in quello che sia totalmente estraneo alla partitocrazia, che non abbia mai avuto nulla, nullissima a che fare con Craxi, che Andreotti l'abbia visto solo in caricatura, che non abbia mai trattato, brigato, mestato, accettato compromessi, preso cantonate e calato occasionalmente le brache, questo proprio no. Niente di male, eh? Sono cose che abbiamo fatto tutti nel proprio ambito, anche noi nel nostro, e naturalmente anche noi siamo favorevoli al cambiamento, figuriamoci, ma quello di presentarci dei vecchi arnesi come simbolo di rinnovamento è veramente un difetto antico della politica italiana e come il marchio della sua ideologia. Per una volta non potevano risparmiarcelo almeno. Mine. We're gonna lay leave all our troubles behind. Go on, walk and don't look back. Go on, walk and don't look back. Now if your first lover let you down, there's something